Signore e signori, Gigi D'Agostino. Musica degna, prima ti bacia e dopo ti legna. Ascoltatori e danzatori, chiamate i vostri genitori. Sverti va, qui c'è musica che pesta, suona il maestro e roba onesta. Stai a capire? Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Programa musical mental, olé, me gusta mucho macho, que cacho. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. No, così. Sera, sabato 17 febbraio 2007, ore 22, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca 24.000 Baci, Latina. Gigi, oggi 17 febbraio è il mio compleanno. Mi fai gli auguri, per favore? Sono Manuela da Torino. Auguri. folclorista, Shut up. Capito come? Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Politie, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 8.

bisogna sfumare piano piano la musica. Quando, cioè quando arriva il momento di togliere il brano perché bisogna mandare in onda qualcos'altro, allora molto ecco, pienissimo, così ancora un po'. A posto. Pubblicità. Riprendiamo il nostro cammino. Vai di cassa. Cammino del Gigi D'Agostino. Successione dei fenomeni. L'uomo sapiente non è né un indovino, né tanto meno un

di Gigi D'Agostino. Domenica 18 febbraio 2007, ore 21:30, Officina emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca Mi Vida, Belluno. Il piacere intenso che può darmi un ritmo, devo trovare un passo che mi permetta di percorrerlo. Ma non voglio un semplice percorrere, voglio percorrere godendo col corpo e con l'anima. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E non so neanche io dove sto andando. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Mi sveglio, ho sonno, però buongiorno. Ho fatto un sogno di quelli porno. Mi alzo in piedi, mi corro intorno. Mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. Mi sveglio, sonno, però buongiorno. Ho fatto un sogno. Faccia, se no mi addormo, mi vesto in fretta con la sciarpetta, incrocio un vicino ma non mi rendo retta. Il mio pensiero sta già creando e la mia mente sta già spaziando, perché il tuo giorno non è tuo forno, se scegli bene chi ti sta intorno, perché un bel giorno di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. dalla dance più conosciuta alla nuova sonorità mai vissuta, dalla melodia più raffinata alla martellata più incazzata. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che con tempo varia e non sta ad aspettare. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. Tre, tre, tre, sei, quattro, sei, sette, sei, sei, due. Oh, già, già. I want. Gigi D'Agostino. Un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi. Mando la pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Questa sera, sabato 17 febbraio 2007, ore 22. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca 24.000 baci. Latina. Officina emotiva. Domani sera, domenica 18 febbraio 2007, ore 21.30. Presso la discoteca Mi Vida, Belluno. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. vita in questa società sarebbe impossibile senza le api. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori perché ci permettono di continuare a suonare e a danzare. Grazie. Il cammino di Gigi D'Agostino vi abbraccia forte. Domani è domenica e quindi ci sentiamo lunedì. Grazie.